Radio 24 Reportage. La mia Russia, le città e gli scrittori, di Alessandra Tedesco. Ci sono posti dove un evento di enorme portata ha cambiato non solo la storia, ma anche la geografia, l'architettura delle città, il carattere della gente. Uno di questi posti è la Russia. Visitare oggi città come Mosca e San Pietroburgo significa respirare l'aria del passato remoto, quel che resta del periodo degli zar, ma anche l'aria del passato recente, il regime sovietico. Sono città che ad ogni angolo raccontano storie di un passato diverso e di un presente fatto di mille contraddizioni, di una dittatura finita, ma di una vera libertà non ancora conquistata. Abbiamo fatto questo viaggio in Russia con tre scrittori finalisti del premio Strega. La prima tappa è Mosca e sera. Ceniamo con i rappresentanti dell'Istituto Italiano di Cultura Mosca in un ristorante tipico. Una valanga di antipasti, fra i quali non possono mancare i blinì con panna acida e caviale rosso, poi salmone con bacche di ginepro, il tutto innaffiato con l'immancabile vodka. La mattina seguente Mosca ci aspetta. Facciamo i veri turisti fai da te e prendiamo la metropolitana. Forse ha perso il fasto di un tempo, ma alcune fermate hanno mantenuto intatta un'insolita eleganza. Non abbiamo una meta precisa. Scendiamo a una fermata qualsiasi e prendiamo un autobus, una sorta di circolare, per avere una panoramica della città. Grandi casermoni che portano la firma dell'Unione Sovietica e strade senza identità. Arriviamo infine in una delle mete turistiche più gettonate, la Piazza Rossa. Così la vede Lorenza Ghinelli, giovane scrittrice del romanzo La Colpa. Non c'ero mai stata in questa Piazza Rossa, non ero mai stata a Mosca, è un'esperienza straordinaria. C'è una magnificenza che a volte è quasi soverchiante. E poi se posso, cioè, posso anche dire che quelle che sono le tensioni sociali traspaiono sicuramente anche dai visi della gente. È una città estremamente complessa e mi sento veramente fortunata a poterla conoscere anche se in modo tangente. Siamo nella Piazza Rossa davanti al monumento di Lenin. Che impressione ti fa anche questo monumento, sapere che questa piazza ha fatto la storia, insomma, della Russia, ma anche in parte la storia dell'Europa? Guarda, è senz'altro particolare anche vedere come poi vengano ricordate in una città che l'ha sofferta così tanto, vengano ricordate proprio le città della guerra, vengano ricordati gli anni della Seconda Guerra Mondiale, molto molto forte. E poi un'altra cosa che mi ha molto colpito è stato anche dove c'è la statua di Majakovskij, cioè vedere che è stata recintata, come se si fossero quasi, no, inventati dei lavori proprio anche per impedire manifestazioni ulteriori. Queste sono senz'altro cose che ti fanno pensare. Da Mosca prendiamo un treno e dopo qualche ora siamo a San Pietroburgo. Il periodo è dei migliori per godere delle notti bianche. Alessandro Piperno, vincitore dello Strega con Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, c'è già stato, ma tanti anni fa, quando c'era ancora l'Unione Sovietica. Sono stato a San Pietroburgo esattamente una trentina d'anni fa. E tenendo conto che ho 40 anni, ora ne avevo una decina. Andai in un viaggio piuttosto rocambolesco con mia mamma in piena era Chernenko, quindi era ancora piena Unione Sovietica, quindi ho un ricordo completamente diverso da quello dell'attuale San Pietroburgo. La cosa che mi ha fatto piacere è il fatto che credevo di aver scordato quasi tutto, se non appunto delle aberrazioni sovietiche, e invece ho ritrovato qualcosa di estremamente romantico, diciamo così, perché ho ritrovato la luce, che è una luce splendida, radiosa, di una città del nord, una luce viva che non va mai via, insomma, veramente un'emozione. E siccome c'è un libro che porto nel cuore, che è un libro di Nabokov che si chiama Parla ricordo, nel quale lui ripercorre la sua infanzia e adolescenza pietroburghese prima che venisse appunto cacciato via dai sovietici, ed è un libro che ho letto negli anni, letto e riletto, ed è un libro che è proprio, non so come dire, attraversato da questo meraviglioso azzurro. E, ecco, insomma, ho ritrovato sia l'azzurro radioso della mia infanzia, sia l'azzurro radioso dell'infanzia di Nabokov, il che mi ha molto emozionato. Tappa obbligata a San Pietroburgo è il Museo dell'Ermitage, che ospita una delle collezioni d'arte più importanti al mondo. Si va da Caravaggio a Leonardo da Vinci, da Renoir a Rubens, da Gauguin a Matisse, da Van Gogh a Picasso. Ma Piperno punta su alcune opere in particolare. Eh sì, è stata una piccola vacanza, diciamo, alla ricerca di qualcosa di antico, di remoto, perché la prima cosa credo che ho scritto quasi professionalmente era un articolo ai tempi dell'università su due o tre quadri di Pontormo e di Rosso Fiorentino. Sapevo che erano all'Ermitage, ma non li avevo mai visti, naturalmente, perché non venivo da tanti anni, e sono andato a ritrovarli, e devo dire che, come dire, anche questo, quando li ho ritrovati è stato molto emozionante, e devo dire che anche questi hanno una relazione con San Pietroburgo, nel senso che sia Rosso Fiorentino che Pontormo rappresentano quella generazioni di artisti manieristi, allievi di Michelangelo, che hanno inventato sostanzialmente la maniera europea, e che erano quegli artisti che andarono, un po' Pontormo no, ma Rosso per esempio sì, andò a lavorare a Fontainebleau, che andarono a lavorare in Europa e hanno portato l'Italia nel mondo, tenendo conto che San Pietroburgo è una città, è la città del nord più italiana, del nord Europa più italiana che esista, per i suoi architetti e anche per i suoi pittori, per i suoi artisti. Diciamo che Pontormo e Rosso sono più giusti qui che a Firenze o Empoli, da cui venivano, insomma. Per gli scrittori San Pietroburgo ha un fascino particolare. Qui ci sono le case di grandi autori del passato. Emanuele Trevi, scrittore e saggista, autore di Qualcosa di scritto, decide di fare un suo personalissimo pellegrinaggio. Prima è la casa di Vladimir Nabokov, l'autore di Lolita, che uscì nel 1955, e poi quella di Dostoevsky in un quartiere degradato. Bisogna abbandonare la prospettiva Nevsky e infilarsi nelle stradine laterali fino ad arrivare al quartiere Sennaia, quello narrato in Delitto e Castigo. La parola a Trevi. La casa di Nabokov è molto letterariamente memorabile perché è l'ambiente principale, intanto perché Nabokov, diciamo, è uno scrittore che ha sempre cercato di recuperare quella felicità dell'infanzia, che è la felicità di un bambino russo ricco in una famiglia molto colta, molto particolare, con un padre e una madre straordinari nella Russia di prima della rivoluzione, tutto quello che viene spazzato via poi con l'emigrazione a Berlino, a Parigi, quell'alta borghesia russa che forma la generazione dei cosiddetti émigrés quando il regime sovietico si afferma in Russia a partire dal 17. Quindi, diciamo, è un nido perduto, un'utopia che lui non ha mai recuperato. Ci sono delle tracce che sono sempre discutibili quando si rende una casa in museo, di quella per esempio una casa molto bella, si vede tutta di queste straordinarie boiserie che vanno dal pareti al soffitto, sembra un luogo incantevole dove vivere ancora oggi, che poi quando c'è un museo si mettono le vetrinette, le bacheche, ci sono molte delle sue farfalle. E le prime edizioni dei libri, diciamo che però è un luogo che al di là di questo dà una suggestione particolare. Un altro posto molto interessante è la casa di Dostoevsky, tra l'altro permette una lunga e bella passeggiata, il confronto tra queste due case, uno scrittore che era odiato da Nabokov, che era considerato un mediocrissimo mestatore di proprio Nabokov, probabilmente gli attribuiva anche un po' di responsabilità, diciamo, nel clima retorico del bolscevismo. E chiaramente era ingiusto, perché Dostoevsky è un gigante, un inventore di forme narrative straordinario. La casa di Dostoevsky è veramente impressionante, è rimasta conservata come era. È una casa modestissima proprio, e quando leggiamo le memorie di Anna Dostoevskaya, la sua moglie, abbiamo un... sembra di vederla, insomma, con questa carta da parati. E poi per quello che riguarda le misure delle case di oggi, magari sembra anche una casa grande e benestante, perché poi Però ecco appunto, se pensiamo che a quei tempi si poteva avere un palazzo intero, è veramente una casetta piccola con la scrivania dove lui scriveva, e hanno un'usanza carina che gli lasciano sempre una tazza di tè piena nel caso se viene, ci sono le sue sigarette, la sua, insomma, è un luogo che oggettivamente traspira una forma di spiritualità molto più evidente della casa di Nabokov, che è una meta così di pellegrinaggi. Chi ha letto questo bellissimo libro di Nabokov, che si chiama Parla ricordo, chiaramente riconosce alcune cose. Invece lì, al di là del riconoscimento di questa o quella, ad esempio la zona dove abita, poi è la zona di delitto e castigo, ci si rende conto che poi sono molto... E tra l'altro ancora oggi è un quartiere sordido di San Pietroburgo, pieno di tossici, di gente che ubriaca per terra, e questo in realtà... E poi c'è questo luogo, c'è questa targa con Dostoevskij col barbone, una brutta targa di quelle sovietiche, e in qualche maniera Dostoevskij, che è stato il cantore di un'umanità fallita, che non ha un rapporto col divenire storico, con un'esistenza positiva, per il strano caso del destino si trova circondato di una, proprio è un posto miserabile che traspira, ma nemmeno di quelli belli tipo giovanili, proprio come potrebbe essere certi posti di Amsterdam, è proprio un posto di gente alla deriva, o anche con questi piccoli rivenditori, di queste donne che vendono della verdura, ma sembra l'India, cioè magari due carciofi, un cesto di fragoline che magari spande un buon odore, ma proprio povero, povero, ecco. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.